Milizia post-atomica. Infatti voglio non aver preso la brutta. Piega. Mamma scusa se non vado da un botto. Chiesa. Sono a casa che mi scasso col lasso. E l'angoscia non ti veste di velluto. Se non urlo certa gente non mi sente. Appena mi presento con la peste da presente a cena. Focalizza chi ti mangia dalla pancia piena. Ugolino ti divora e non ne vale la pena. Credo nelle forbici in Italia alle radici. Credo negli spari ai politici e agli amici. Credo che la sfiga paghi tutti i sacrifici. Credo che ti sputo in faccia se non pensi a cosa dici. Benefici traduci in cospicui tindi benedici. Costruisci edifici poi viaggi fino alle fici. Dici cose che non fai, fai le cose che non dici. Dall'alto usi le spade, per le spade ci perisci. Non credo che metta cianuro, cicuta nelle portate. Ma tanto già premeditato di fare una strage con le posate. Non credo nel vostro futuro, nel muro di ste cazzate. Ma credo che nessuno pianga quando moriate. Mamma torno sfuso, sai che sorpresa. Salgo dalle scale ma è una discesa. Ti sei mi offesa, sì. Come pensi che mi senta qui? Io non ho limiti. Ho le mani che si allungano, il tempo te lo rubano. Trasudano di interesse, il cervello te lo bucano. E mamma torno fuso, sai che sorpresa. Vengo con gli avanzi, lascia luce accesa. Piegato mal di pancia, la mia faccia è stesa. Ogni notte gira occhi, torno parte lesa. E giochi ancora poco con il suolo. Vivi d'ansia, mettici la faccia, danza sopra il fuoco. C'ho lo stile di Panini sopra il tuo diario. Cambio poche volte solo quando è necessario. Vivi d'after naso d'elefante fuso orario. Comprati il vuoto, non c'è niente di straordinario.